Dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco esce un hashtag, Westlessness, assenza dell'Occidente. E l'Europa? Benvenuti alla nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The death of the Transatlantic Alliance is grossly over-exaggerated. The West is winning. We are collectively winning. Moi, je vois une Europe beaucoup plus souveraine, unie, démocratique. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Buon lunedì da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Tenurlo e Roberta Frisani che è in regia. (349) 238 6666 per SMS e WhatsApp, anche se vedo che preferite il WhatsApp ultimamente. Detto ciò, questo numero serve per commentare e porre domande sul tema che diventa un po' il cardine dell'intera puntata di Nessun Luogo è Lontano. La conferenza sulla sicurezza di Monaco, che è il più grande appuntamento annuale e mondiale sui grandi temi della sicurezza internazionale, ha visto un parterre notevole con capi di Stato, con anche esponenti della società civile, con diplomatici. Ne è uscito, dicevo, un hashtag che suona quasi come uno slogan che va a fotografare impietosamente lo stato dell'Occidente, sempre secondo alcuni esponenti della conferenza di Monaco, ossia Westlessness, cioè assenza dell'Occidente. Cercheremo di capire se è davvero così, se c'è una crisi di valori, una crisi di efficienza ed efficacia diplomatica, assenza sui dossier più importanti. Insomma, per parafrasare un po' quelli che sono stati le due colonne di questa conferenza di Monaco, da un lato abbiamo Mike Pompeo, segretario di Stato, che dice "We are winning, the West is winning", cioè siamo vincitori; dall'altro, come Macron, ricordate, il presidente francese, che disse che la NATO era in uno stato di morte cerebrale, che dice "Beh, ci sono dei problemi in Europa, ma io ho un progetto per un'Europa diversa". Cercheremo di capire appunto qual è lo stato dell'arte dell'Europa. Domande e commenti su questo tema li potete fare anche via Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Detto ciò, siccome il tema ci preme e vogliamo affrontarlo come si deve, un veloce termometro internazionale. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano continua a tenere d'occhio il Burkina Faso, ma in particolare e più in generale, scusatemi, tutto il Sahel. Perché? Perché è notizia di qualche ora fa di un attacco a una chiesa protestante nel nord del paese. Vi sarebbero almeno 24 morti e 18 feriti. Sono state le autorità burkinabè a rendere noto il tragico bilancio, che però potrebbe aumentare ancora nelle prossime ore. Sapete, ci occupiamo molto spesso di Sahel e non manchiamo mai di sottolineare come quel grande buco nero tra Niger, Mali, Burkina Faso appunto, sia ormai un crocevia incredibile di traffici che permettono a molte milizie jihadiste di fare soldi, ma anche, come dire, c'è qualcuno che dice l'instaurazione di un vero e proprio califfato. Diciamo che è un califfato molto liquido, quantomeno c'è una presenza jihadista importante e preoccupante. E se ricorderete, vi abbiamo dato notizia anche dell'aumento del contingente dell'operazione francese Barkhane. 4.500 uomini di stanza, 600 si sono giunti ultimamente, ma gli attacchi non sembrano affatto diminuire. Velocissimi, andiamo su Libia, giù tutto. Scommetto che vi aspettavate il solito countdown, ormai il petrolio, ma non solo, è alle ultime gocce. Purtroppo la NOC non ha aggiornato rispetto a venerdì quello che è il sempre più triste bilancio delle riserve, che si stanno assottigliando. Però è arrivata una dichiarazione importante da parte di Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Ha ricevuto una lettera dell'inviato speciale dell'ONU, Ghassan Salamé, con gli ultimi aggiornamenti su quello che è il deficit economico della Libia. Con questa contrazione dell'industria petrolifera, il paese sta perdendo 60 milioni di dollari al giorno. E poi c'è un altro punto che volevo sottolineare, perché si continua a disquisire, a dibattere sull'operazione Sofia, quell'operazione navale che dovrebbe far rispettare l'embargo. Ancora una volta ci è triste ed quasi doloroso segnalare il solito veto, il mettersi di traverso da parte dell'Austria. L'Austria ha detto, per esempio, che non ha nessuna intenzione di rinnovare l'impegno navale di fronte alle coste libiche, ma magari monitoraggio aerospaziale, cioè droni e satelliti per eventualmente valutare se l'embargo verrà o meno rispettato. Ancora una volta, l'Europa non ha una voce comune. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Fatemi però fare un breve preambolo prima di presentarvi il primo ospite di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. A Monaco, vi dicevo, si sono discussi i più importanti temi della sicurezza internazionale. Partiamo da una frase di Mike Pompeo che è emblematica. Ascoltiamo insieme. Let me give you an idea of what's real. The West is winning. Freedom and democracy are winning. And by that I don't mean just geographical nations. Il segretario di Stato americano ha detto: lasciate che vi dia un'idea di ciò che è reale. L'Occidente sta vincendo, la democrazia sta vincendo. E non mi riferisco all'Occidente solo come uno spazio geografico, ma come un insieme di nazioni che condividono valori precisi come la libertà. Gli ha fatto eco, non senza evidentemente un senso di irritazione, il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ribattuto usando parole ben diverse. Innanzitutto il declino dell'Occidente. Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire, et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet un affaiblissement de l'Occident. Indebolimento, per essere precisi, dell'Occidente. Sentite come Macron fotografa l'Europa oggi. L'emergence chinoise évidemment est à prendre en compte. L'emergenza cinese è da prendere in considerazione. Ci sono delle potenze regionali che non condividono i nostri valori, ma che sono molto vicine: la Turchia e la Russia. Abbiamo un altro grande vicino, l'Africa, che può essere fonte di grandi opportunità. E poi c'è una politica americana che sta riconsiderando la sua azione congiunta con l'Europa. E noi dobbiamo tenerne conto. D'une reconsidération de sa relation avec l'Europe. E qu'il faut regarder là aussi en face. E vi dicevo che Emmanuel Macron si è spinto più in là perché ha proposto una sua visione d'Europa. L'ascoltiamo. Moi je vois une Europe beaucoup plus souveraine, unie, démocratique. À horizon 10 ans, je vois une Europe qui aura construit les leviers pour bâtir sa souveraineté technologique, de sécurité et de défense, sur les sujets migratoires. En termes alimentaires, en termes climatiques et environnementaux. Insomma, un'Europa sovrana, unita dal punto di vista tecnologico, sulla questione migratoria, sulla questione ambientale, unita e democratica. Così il presidente Macron, insomma, capite bene che dal vertice di Monaco sono scaturite due idee diverse di Occidente. Siamo in declino, sì o no? E se siamo in declino, di quali dossier non ci stiamo occupando, o quantomeno non ci stiamo occupando abbastanza? Di sicuro è stata fotografata una crisi di influenza diplomatica, di efficacia dell'Occidente, in particolare dell'Europa. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano, Lia Quartapelle, deputato del Partito Democratico, Commissione Affari Esteri. Quartapelle, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, dossier mediterraneo è uno dei dossier che sono emersi come preponderanti dalla conferenza di Monaco. Mediterraneo comprende sia il dossier libico che per esempio quello turco. Sul Mediterraneo mi pare di poter dire, senza tema di smentita, che l'Europa abbia un po' perso tempo, anzi abbia abdicato. Come recuperare tempo e posizioni perdute, secondo lei, Quartapelle? L'Europa non ha fatto, soprattutto nei mesi precedenti, quello che doveva sul Mediterraneo e in particolare sulla Libia. Rispetto alla vostra copertina, io però ho qualche distinguo, nel senso sì. Che sì, è vero, è complicato mettere d'accordo i paesi europei sulla vicenda libica, è meno complicato mettere d'accordo sulla Libia rispetto per esempio alla Siria, una crisi dove l'Unione Europea sostanzialmente ha semplicemente pagato le conseguenze dell'instabilità lì, sia in termini di migrazioni sia in termini proprio di aiuti umanitari. In Libia invece da Monaco proprio sono arrivati qualche segnale positivo, in particolare l'allargamento di questo gruppo di contatto che si chiama E3, sì, che comprende Francia, Germania e Regno Unito, anche all'Italia, che è l'altro paese che discuteranno di Libia, quindi un piccolo gruppo di volenterosi di paesi più esposti che insieme procedono su questa crisi. Non è poco se si pensa a quanto le divisioni tra Francia e Italia negli ultimi mesi hanno indebolito la presenza europea in Libia. Poi certo si può fare di più, a Monaco si è discusso molto della possibilità di schierare forze europee per la protezione dell'embargo, per il rispetto dell'embargo di armi sì. nei confronti della Libia. Anche su questo i paesi europei sono d'accordo con un diverso grado di impegno. Alcuni paesi non escludono addirittura l'impiego di truppe di terra. Oggi a Bruxelles si è discusso di rimettere in mare un'operazione navale che faccia rispettare l'embargo. Insomma, sono dei passi in avanti anche rispetto alle posizioni più intransigenti dell'Austria, per esempio. Sì, sì, infatti, che citavamo come tra i paesi, assieme all'Ungheria, che più spesso si mettono di traverso. Il grande spauracchio per loro del mettere in piedi, confermare l'operazione navale Sofia e il salvataggio dei migranti diventa un discrimine per loro incredibile. A proposito di migranti, c'è una dichiarazione del primo ministro norvegese Erna Solberg che ha detto che si rifiuta di pensare che l'Occidente sia in crisi perché i rifugiati comunque puntano sull'Europa. In più la commissaria alla concorrenza dell'Unione Europea Margrethe Vestager ha detto: mi rifiuto di pensare a questa cosiddetta westlessness, cioè assenza dell'Occidente. Il ruolo e il potere delle leggi e l'integrità dell'individuo si sono diffusi ovunque e sono valori europei. Al di là, come dire, di una preminenza ideologica e culturale di questo Occidente, che a me pare di poter dire che è davvero in crisi, non è che, come nel caso siriano, come dire, paghiamo lo scotto delle crisi ma senza riuscire a risolverlo, quindi per esempio flussi migratori o inazione rispetto alla Libia? Sì, secondo me, ecco, diciamo, a Monaco si è discusso moltissimo di questo concetto di assenza dell'Occidente in tanti ambiti. Io credo che vada circoscritto soprattutto relativamente alle difficoltà di relazioni tra l'Europa e l'amministrazione Trump, tant'è che appunto il segretario di Stato Pompeo, l'avete fatto sentire anche voi, è arrivato a negare che ci siano delle difficoltà di comprensione anche solo tra alleati. Questo è il punto, secondo me, che indebolisce oggi l'Occidente, il fatto che gli Stati Uniti vogliono fare da soli, non sono più i garanti di un certo ordine internazionale, ed è questo che mette in crisi il resto degli alleati americani. Certo, da Monaco sono arrivate anche delle voci, secondo me, molto belle da ascoltare, sia dei paesi che vogliono aderire all'Unione Europea, sia dei paesi di nuova adesione, penso ad esempio alla Presidente Caputova, la Presidente della Slovacchia, che hanno ricordato che cosa vuol dire lottare per la libertà. Ci sono state delle audizioni di attivisti di Hong Kong, russi, iraniani, che ci hanno ricordato che cosa vuol dire lottare e pagare in prima persona con il carcere, con la vita per i diritti umani. Ecco, tutti questi sono dei messaggi che arrivano a un Occidente un po' disorientato, che però non deve dimenticare da dove viene e dove vuole andare. Sì. Onorevole Quartapelle, visto che abbiamo citato anche il dossier diritti umani, c'è un vicino, il caso Zaki ha riaperto in maniera violenta quello che è un vicino piuttosto ingombrante che si affaccia sul Mediterraneo e spesso lo fa senza rispetto adeguato e tutela per i diritti umani. Serve un cambio di passo nella politica verso il Cairo, secondo lei? Ma, insomma, il Cairo ci presenta un conto molto salato, che è il conto dell'incertezza tra instabilità, cioè tra stabilità e rispetto dei diritti umani. Io credo che con il Cairo serva definire chiaramente le possibilità di collaborazione con il nostro paese. Il Cairo è venuto meno a un impegno sulla fiducia rispetto alla vicenda Regeni, che non ci aiutano a chiarire la vicenda Regeni. Alcune cose con il Cairo non si fanno, e credo che questo debba essere molto chiaro e debba essere una cosa che viene anche europeizzata. In questo senso il caso Zaki ci sta aiutando, non c'è solo l'Italia a chiedere la liberazione di Patrick Zaki, c'è anche l'Unione Europea, ci sono anche gli americani, sono anche i canadesi, e questo è un cambio di passo che non è solo italiano ed è molto importante. Sì. Grazie mille all'onorevole Lia Quartapelle, commissione esteri del Partito Democratico. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Ancora ben ritrovati, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, quest'oggi tiriamo le fila e le somme di quella che è stata la conferenza di Monaco, una conferenza importante, il consesso annuale internazionale più noto per ciò che riguarda tutti i temi legati alla sicurezza internazionale. Ne è emersa una parola, potremmo sintetizzarlo con un hashtag ogni tanto dalla difficile pronuncia, westlessness, vuol dire assenza dell'Occidente. Cosa significa in sostanza? Beh, una perdita di influenza da parte del mondo occidentale, globalmente considerato, ma in particolare dell'Europa. E con che cosa? E qua bisogna dirlo, perché la presenza di Mike Pompeo ha in qualche modo evidenziato che il re è nudo. Vi sono dei dossier particolarmente divisivi che hanno fatto mancare la stampella statunitense alla politica europea. Pensate per esempio alla Siria, al dossier siriano, in cui c'è stata una riluttanza occidentale a intervenire e a pacificare fin dai primi mesi di quel sanguinosissimo conflitto, e poi però l'Europa ne ha pagato le conseguenze, oltre che il popolo siriano evidentemente. In Libia l'Occidente nel suo complesso ha lasciato ampio spazio, complice un disimpegno progressivo statunitense, a chi? Beh, a Russia e a Turchia innanzitutto. La Turchia è lì a Tripoli, e poi con l'Iran. A un certo punto il presidente Donald Trump ha deciso che l'accordo sul nucleare non era più profittevole per la comunità internazionale e ha deciso di sfilarsi, lasciando soltanto quel baluardo francese impersonato da Emmanuel Macron, che vi ricorderete da Calais si dava da fare con il ministro degli esteri Zarif per cercare di andare a ricucire un filo con l'Iran. Poi c'è Medio Oriente e Palestina. Donald Trump mette la quarta, anzi dovremmo dire la quinta, il cambio di ambasciata fino a Gerusalemme, alcune concessioni alla destra israeliana più oltranzista, e poi c'è il caso Cina, Huawei, 5G, insomma tanti dossier in cui a un certo punto sembra che l'Unione Europea, l'Europa nel suo complesso, e gli Stati Uniti non siano più alleati. Poi vi sono altri dossier come quello del Nord Stream, che vede Russia e Germania, la Turchia nel Mediterraneo. Insomma, è come se in qualche modo l'assenza statunitense debba costringere l'Europa a prendersi le proprie responsabilità. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo è Lontano al professor Gianluca Pastori. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, il professor Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa alla Facoltà di Scienze Politiche, Università Cattolica, e anche analista per ISPI. Professore, partiamo da una prima quasi a slogan. Chi ha ragione? Mike Pompeo, che dice che l'Occidente è vivo e stiamo vincendo, o il presidente tedesco Steinmeier, che ha detto no, qua non stiamo vincendo perché gli Stati Uniti rifiutano addirittura l'idea di una comunità internazionale e preferiscono l'ognun per sé? Bah, difficile a dirsi, perché credo che il problema grosso sia che entrambi parlano di due occidenti diversi. Dal punto di vista europeo, quindi dal punto di vista tedesco, si parla di un occidente che è la comunità transatlantica, quindi il rapporto Europa-Stati Uniti, che è quello che ha tenuto in piedi, che ha costruito e tenuto in piedi l'ordine internazionale così come lo conosciamo oggi, il multilateralismo, tutte queste belle cose. Dall'altra, gli Stati Uniti pensano a un Occidente diverso, a un Occidente che è fatto di primazia dei singoli stati occidentali, e in questo caso appunto degli Stati Uniti, che come stanno dimostrando le cose, che le esperienze che lei ha citato, si sentono in grado di sciogliere e di legare quello che desiderano. Il professor Gianluca Pastori introduce un elemento interessante, perché consideravamo l'Occidente un tutt'uno fino almeno alla conferenza di Monaco, che ha suggellato, ha fotografato, e non che vi fosse una distanza maggiore nelle relazioni transatlantiche. Però a questo punto i due occidenti sono costretti a darsi da fare, ognuno per sé. Gli Stati Uniti hanno un bel arsenale, parlo dal punto di vista diplomatico, militare, economico, eccetera, eccetera. Però questo disimpegno statunitense in tanti dossier europei non costringe l'Europa a prendersi le proprie responsabilità. Insomma, questa giovane Europa forse deve crescere e avere il coraggio di sporcarsi le mani. Che cosa ne pensa, professore? Decisamente sì. Diciamo che l'esperienza dell'amministrazione Trump è stata un una terapia shock che ha fatto capire all'Europa quello che avrebbe dovuto capire da parecchio tempo. Trump l'ha fatto in maniera molto molto trumpiana, diciamo così, con tutta una serie di caratteristiche molto legate al personaggio, ma già Barack Obama, con toni e con modalità diverse, aveva detto in più di un'occasione che l'Europa deve imparare a fare da sé e che non può sempre contare sugli Stati Uniti. Ecco, Trump, appunto, con tutto il suo, chiamiamolo così, malgarbo, con tutto il suo essere abrasivo, ha ribadito questo concetto e forse, ma io ci tengo a sottolineare forse, ha messo in moto qualcosina nella macchina. Sì, sì. Insomma, gioco forza per l'Europa, tirarsi su, rimboccarsi le maniche in buona sostanza e forse non affidarsi più di tanto a quello che un grande passato culturale di valori, giustissimamente alcuni esponenti e intervenuti alla conferenza di Monaco hanno detto: i valori dell'Occidente sono stati diffusi in tutto il mondo in maniera virtuosa e in maniera efficiente. C'è una crisi culturale e di valori, secondo lei, invece, da parte dell'Occidente? Non, se parliamo di Europa non la definirei una crisi di valori, ci sono delle difficoltà sicuramente che qualunque corpo politico, qualunque organismo politico periodicamente attraversa. A mio modo di vedere, più che una crisi di valori, per l'Europa è una crisi di operatività, cioè di riuscire a trasformare questi valori in politica anche dotandosi degli strumenti necessari. Per esempio, professore? Ma non vorrei riprendere la vecchia battuta secondo cui l'Europa è un gigante politico, un nano economico, un gigante economico, un nano politico, una larva militare. L'aspetto politico del funzionamento dell'Unione rimane un grosso problema, la capacità dell'Europa di parlare con una voce, come diceva Henry Kissinger, continua a sollevare difficoltà. Sul piano militare stiamo muovendoci, ma ci stiamo muovendo con tante soluzioni, in molti casi una in competizione con l'altra. Beh, è trovare questi strumenti il vero problema, e questi strumenti si possono trovare soltanto se esistono delle volontà nazionali convergenti, e queste volontà nazionali convergenti al momento continuano a mancare. Se dovessimo tornare alla metafora di questa giovane Europa che deve rimboccarsi le maniche, allora sarebbe politicamente, evidentemente, e in proiezione all'estero, anche una giovane e anche immatura Europa. Detto ciò, è chiaramente un ossimoro, perché noi siamo il vecchio continente. Professore, tra i tanti dossier che ci dividono dalla politica statunitense, in particolare dall'amministrazione Trump, ce n'è uno, secondo lei, che è particolarmente sensibile, particolarmente divisivo? Ne abbiamo citati tanti, dal caso libico, la preponderanza turca, la Russia, Cina, Huawei, il 5G, il Medio Oriente. Qual è, secondo lei, quello che ci sta veramente distanziando e quell'oceano Atlantico diventa sempre più chilometrico, sempre più un braccio di mare più vasto? Io credo che questi dossier non siano la causa della divergenza, ma siano queste divergenze sui dossier non siano la causa, ma siano il frutto dell'allontanamento dell'Europa dagli Stati Uniti. Siria e Libia sono per molti aspetti crisi gemelle, sono crisi di un mancato impegno iniziale per il quale Europa e Stati Uniti condividono tantissime responsabilità. La Palestina è sicuramente una questione divisiva, modi molto diversi, Europa e Stati Uniti hanno modi molto diversi di approcciarsi alla questione, ma il dossier palestinese mi sembra anche che stia progressivamente perdendo di rilievo sulla scena internazionale. Ce ne sono altri molto più urgenti, molto più sentiti. Senza dubbio. Lì forse, professore, mi dica. Prego. No, e forse il rapporto con la Cina è il vero core. Sì, e fra l'altro il rapporto con la Cina e il 5G in particolare dedicheremo l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Abbiamo avuto una comunione di visione in questo senso, professor Pastori. Solo una notazione prima di salutarla e lasciare la linea all'informazione finanziaria. Forse, per esempio, un dossier come quello palestinese, che perde smalto sui tavoli, sui grandi consessi internazionali, forse c'è anche un'abilità da parte di altri attori nel far emergere altri dossier e altre priorità. Quindi ancora una volta, no? Si parla e ci cercano di risolvere quei problemi che uno bravo fa emergere, dice: signori, qua questo è un problema e la comunità internazionale deve risolverlo. Ma torniamo alla questione che sollevava lei, insomma, della volontà politica. Grazie mille al professor Pastori, insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa a Scienze Politiche, Università Cattolica, analista di ISPI. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi. Allora, Roberto Frisani, informazione finanziaria e poi voltiamo pagina. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo weekend si è chiusa la conferenza sulla sicurezza di Monaco, che è stato un grande consesso annuale internazionale in cui si dovevano dibattere i grandi temi della sicurezza. Ne è emerso un hashtag o uno slogan o, come dire, un messaggio che forse non tutti speravano di sentire arrivare alle proprie orecchie: Westlessness, l'assenza dell'Occidente. In tutto ciò come si colloca l'Europa? Da un lato abbiamo sentito i toni trionfalistici del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, che ha detto "noi stiamo vincendo", tra gli sguardi attoniti di alcuni astanti che si guardavano chiedendosi "ma noi esattamente chi?". Come giustamente il nostro ospite, il professor Gianluca Pastori, sottolineava, quel noi era riferito a due occidenti diversi: dall'alto c'è un'Europa e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti, i quali però si confrontano su tanti dossier e su tanti dossier ci sono posizioni divergenti. A questo punto, il vecchio continente, o un'Europa giovane, se preferite fotografarla in questo modo, deve rimboccarsi le maniche e acquisire probabilmente più audacia nella politica estera. Altrimenti la parola a voi. 349-238-6666, un ascoltatore: l'Europa e l'Italia devono intervenire in Libia, se no siamo già morti da tutti i punti di vista. L'Austria si disimpegna? Amen, chiude così questo ascoltatore. Un'ascoltatrice: non capisco, America, un poliziotto e giudice mondiale, deve essere presente dappertutto? Può anche farsi i cavoli suoi e basta con questa mania, avere il padrone e leccare gli stivali. Ci va giù pesante l'ascoltatrice. Se Europa si vanta di sua unità, democrazia forza, può prendere le decisioni anche da sola. Lo svantaggio europeo dovuto alla non unità di visione e di intenti, sottolinea un altro ascoltatore. Altre grandi faglie, quindi divisioni tra Europa e Trump, il clima e il libero commercio. Insomma, tema che mi sembra stia suscitando un interessante dibattito, come l'ha suscitato sui principali network televisivi internazionali. Per esempio, andando a spulciare tra CNN e Al Jazeera, abbiamo ascoltato quello che è Inside Story, uno dei talk forse più famosi dell'emittente del Qatar. C'era un autore interessante che alla domanda precisa l'Occidente è assente, l'Occidente è in crisi, e l'autore in questione è Glenn Deasen, che insegna relazioni internazionali alla Alta Scuola di Economia di Mosca, e ha scritto un libro, La decadenza della civiltà occidentale e il risorgere della Russia, così lo potrei tradurre. Sentite cosa dice Glenn Deasen. I would say no. It seems like the West is weakening itself, especially if we compare it to 30 years ago when the Cold War came to an end. Sostanzialmente, Deasen su Occidente debole dice che dalla fine della Guerra Fredda l'Occidente ha fatto di tutto per indebolirsi da sé, insomma consacrando quello che è uno stato di fatto e che dobbiamo registrare. 349-238-6666. Fra i vari dossier che ho elencato, lo ripeto, andiamo dalla Libia, la Turchia, la Cina, Huawei, 5G, tra poco ci entriamo un po' meglio nel dettaglio per scoprire ancora una volta come l'alta tecnologia stia diventando una leva formidabile di geopolitica. Poi dicevo il Nord Stream, il gasdotto tra Germania e Russia, anche questo chiaramente diventa divisivo all'interno dell'Europa, il Medio Oriente, la Palestina. In mezzo vi sono temi trasversali, perché se parliamo di immigrazione e terrorismo pensiamo alla Libia, ma pensiamo anche alla Siria. E poi forse, come qualche ascoltatore sembra sussurrare al 349-238-6666, c'è anche una crisi di valori, di identità, ma soprattutto una mancanza di visione per il futuro. Forse il presidente francese Emmanuel Macron si deve riconoscere assolutamente. Una serie di iniziative in politica estera, è stato l'unico dei leader che alla conferenza di Monaco ha, come dire, tratteggiato l'Europa che vuole vedere, l'Europa che sogna, e forse è un primo segnale di forza, di azione per l'Europa che verrà. Nel frattempo le agenzie ci restituiscono, viene segnalata come breaking dalla Libia, Borrell, anzi in realtà devo dire da Bruxelles, ma riguarda la Libia. Dopo una lunga discussione i ministri hanno trovato un accordo all'unanimità. Attenzione, a proposito di divisioni europee, qua vengono smentite immediatamente tutte le cose dette fino adesso. L'operazione Sofia, mi hanno corretto giustamente alcuni ascoltatori, l'operazione Sofia sarà chiusa alla scadenza del suo mandato, e lo sapete, il 20 marzo, ma sarà sostituita da una nuova missione nel Mediterraneo per attuare l'embargo ONU sulle armi. Questo dimostra che quando c'è volontà politica niente è impossibile, ha detto Josep Borrell al termine del Consiglio dell'Esteri dell'Unione Europea. Insomma, sembra aver superato quella che era il veto austriaco, ma anche dell'Ungheria, guarda caso, proprio i paesi che non vogliono sentir parlare di migranti. Ricorderete, il veto in particolare era sulla presenza delle navi militari, perché ancora, secondo alcuni, la presenza di navi davanti alla Libia sarebbe un cosiddetto pull factor, cioè attirerebbe i migranti, cosa che è smentita assolutamente da tutte le statistiche che potete trovare non soltanto sul sito del Viminale, ma anche sulle analisi di qualsiasi rilevante think tank. Ancora 349-238-6666. Dopo la Brexit, la Francia, forte del suo status nucleare, unico in Europa, vuole certificarsi come pilastro politico e militare, così come la Germania è quello economico. Sono d'accordissimo, Macron non ha mai nascosto, io citavo il caso di Calais, quando a un certo punto si è incontrato il presidente francese con Zarif, il ministro degli esteri iraniano, per cercare di ricucire quell'isolamento in cui soprattutto la politica americana e le sanzioni hanno messo l'Iran. Iran, peraltro, ve lo ricordo, che si vota il 21 di febbraio, che è questo venerdì, un'elezione importantissima che seguiremo molto molto da vicino, un'elezione dopo tutto quello che è accaduto, lo ricorderete, le proteste di piazza, almeno 600 morti secondo alcuni osservatori, e poi l'uccisione di Soleimani. Insomma, c'è in ballo tantissimo nelle prossime elezioni iraniane, e proprio il dossier iraniano è uno di quelli che più divide gli Stati Uniti dalla Europa. Qualcuno torna sulla funzione di poliziotto nel mondo degli Stati Uniti: è nella loro costituzione il diritto di difendere i loro interessi economici in tutto il mondo, anche con la forza. Poi aggiunge un emoticon, come dire, quasi perplesso questo ascoltatore. Non c'è dubbio, lo ricordava il professor Pastore, che comunque il disimpegno statunitense da tanti quadranti è iniziato già con la presidenza Obama. Troppo costoso, si è detto, troppo difficile a volte far tornare nelle bare i militari americani. Tante guerre sono state combattute, l'Afghanistan, lo ricordiamo sempre, è stata la più lunga guerra combattuta appunto dagli Stati Uniti. E quindi il disimpegno è un po' la tesi che sta al centro di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Quasi verrebbe da dire, beh, ben venga meno la stampella statunitense all'Europa. Siamo costretti, e qua parlo da cittadino europeo, a rimborcarci le maniche e a pensare un'Europa che vogliamo e una politica estera che vogliamo. Allora, c'è un ascoltatore che scrive: mentre tutte le grandi potenze continuavano ad armarsi, noi, grazie alle politiche DEM, siamo rimasti umani e non violenti, lo mette tra virgolette. Voglio proprio vedere con questo esercito di Franceschiello, immagino sia irridente, scusate, la fine che faremo. In realtà, gentile ascoltatore, le capacità di proiezione del nostro esercito sono ottime e sono assolutamente molto ben valutate a livello internazionale, ne sia esempio la nostra presenza in Afghanistan, ne sia esempio la nostra presenza e guida UNIFIL, siamo in Libano e non solo. Piuttosto la metterei in questi termini: abbiamo un'ottima capacità di proiezione militare e forse manca il sostegno politico per far diventare quella proiezione militare una leva di politica estera come si deve. Fra poco vi presento il prossimo ospite, parliamo di quello che per molti è l'elefante nella stanza. Gli elefanti sono in Africa e in India, vi parlerò di Cina subito dopo l'informazione sul traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa prima puntata della settimana siamo partiti dalla conferenza di Berlino che si è chiusa con una parola: westlessness, assenza dell'Occidente. Tanti dossier che abbiamo in maniera fugace accarezzato, ma per sottolineare che cosa? Che tolta la stampella statunitense, sto prosaicamente sintetizzando, diciamo, l'appoggio e la comunanza di interessi di Europa e Stati Uniti su tanti dossier, siamo costretti, e qua parlo da cittadino europeo evidentemente, a rimboccarci le maniche e avere una visione chiara di dove vogliamo intervenire e che cosa vogliamo ottenere. Roberto d'Orvieto al 349-238-6666. L'Europa è un'espressione geografica o un'entità economica finanziaria di 28 stati nazionali? Si chiede e ci chiede. 28 eserciti, 28 governi nazionali guidati da Francia e Germania. In una comunità di stati non dovrebbe esserci la pari dignità tra tutti i 28 stati? Primus inter pares o due stati su tutti? Questa, conclude l'ascoltatore, non è una vera Europa, ma una illusione. Allora, il dossier che tocchiamo adesso, che riguarda Huawei, la nota azienda high-tech, tutti conoscono ovviamente i cellulari, ma anche la rete infrastrutturale, il 5G. Questo dossier è interessantissimo perché da un lato, pensate, oltreoceano riesce a mettere insieme le opinioni di Donald Trump e Nancy Pelosi, i due più acerrimi nemici durante la procedura di impeachment. Entrambi concordano che sia una gravissima minaccia alla sicurezza nazionale. Sono entrambi convinti, supportati da analisi dei servizi statunitensi, che vi sia la possibilità di inserire delle modalità, delle tecnologie che consentono di filtrare quella che è la sicurezza dell'Occidente. Dall'altra parte l'Europa sullo stesso dossier non ha la stessa visione. Boris Johnson, per esempio, il Regno Unito, che voi direte c'è stata la Brexit, ma non possiamo immaginare al momento un Regno Unito che si dissocia completamente dalla politica europea, perché su molti temi c'è coincidenza. Dicevo, Boris Johnson ha irritato molto Donald Trump perché si è detto possibilista invece su Huawei e 5G. Proviamo a capire quanto sia davvero un elefante questa Huawei, quanto sia davvero, come ha detto Mike Pompeo, un cavallo di Troia dell'intelligence cinese. Buongiorno a Stefano Mele, ben ritrovato, avvocato, esperto di cyber security e presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Avvocato Mele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, noi amiamo in questa puntata di Nessun Logo, mi sa, ci appoggiamo a slogan e hashtag cavallo di Troia, ma qua sto citando Mike Pompeo. Quanto è davvero rischiosa? La Cina continua a negare questo aspetto di possibile infiltrazione. Quanto dobbiamo temere questa possibilità e questa minaccia? Ma allora, personalmente ritengo che, data la forza con cui gli Stati Uniti d'America stanno calcando la mano proprio su questo dossier, su questo tema, ormai da mesi, è indubbio che nella normalità dei comportamenti degli stati, quando qualcuno calchi la mano in questa maniera, evidentemente un fondo di verità c'è. È chiaro che non abbiamo informazioni riservate, ma io leggo come voi i giornali e quindi ho appreso che gli Stati Uniti d'America hanno comunque condiviso alcune informazioni di intelligence con alcuni governi, anche europei, che insomma sono in procinto di prendere questa decisione fondamentale. Aziende cinesi tecnologiche, perché poi non è soltanto Huawei, ovviamente, certo. Sì o no, e quindi abbiano condiviso una parte delle prove, delle cosiddette prove, che poi sempre più spesso il governo cinese, ma anche le aziende cinesi, giustamente chiedono di mostrare. Certo. È ovvio che non potranno mai essere mostrate, perché inevitabilmente questo genere di informazioni vengono prese molto più nella classica maniera o del doppio giochista che lavora all'interno di quell'azienda, che passa l'informazione corretta, e quindi certo, rendere pubblica l'informazione potrebbe voler dire bruciarsi, sul termine, insomma, per tra virgolette, la fonte all'interno della struttura, e quindi nessuno Stato lo farebbe mai, oppure vengono prese con attività di cyber intelligence, quindi con veri e propri attacchi cibernetici che sottraggono questo genere di informazioni, e quindi per la stessa ragione difficilmente possono essere condivise. Sta di fatto che dobbiamo registrare appunto le parole di Trump e l'atteggiamento in generale del governo degli Stati Uniti, che, come giustamente diceva lei, concorde stranamente da una parte all'altra degli schieramenti politici sulla minaccia, inevitabilmente ci fa credere che effettivamente qualcosa ci debba essere effettivamente. Però guardi, se andiamo a vedere quello che riusciamo a prendere pubblicamente, non sarà sfuggito che proprio il Regno Unito, che oggi si dice possibilista, sì, ma secondo me è semplicemente un gioco politico tra Stati Uniti e UK, un po' di tempo fa, dal Huawei Cyber Security Certification Center è uscito come ogni anno un report, quindi di Huawei, che analizza la sicurezza dei prodotti di Huawei, e mi sembra di leggere da questo report, che è pubblico, lo trovate sul sito del governo del Regno Unito, sì, non esce proprio come un'azienda sotto il punto di vista della sicurezza cibernetica così solida. E allora a questo punto non è più il problema se i cinesi attraverso questa o quella compagnia cinese possano spiarmi, ma a questo punto se le tecnologie sono delle tecnologie costruite sia sul livello hardware che software con scarsi livelli di sicurezza cibernetica, allora il problema per me è che tutti mi potranno spiare. Ecco, e qua andiamo, avvocato Mele, a un punto interessante che è quasi una provocazione. Non è che l'Europa, che è debole da questo punto di vista, perché non esiste una via europea al 5G, no? Quindi siamo un po' schiavi dei grandi colossi. Potrebbe esserci? Io credo che invece proprio sul tema del 5G l'Unione Europea possa essere un protagonista in realtà, perché al momento sotto il punto di vista delle big companies americane un po' arrancano, mentre noi abbiamo due compagnie europee, tra cui che sono, come sappiamo tutti, Nokia e Ericsson, che invece hanno i prodotti 5G, tanto è vero che il governo americano si sta interessando a queste aziende europee ancora una volta, proprio per cercare di capire se affidarsi in questo momento a queste compagnie oppure no, o ancora guarda la casualità, proprio sul 5G abbiamo una società italiana che produce apparecchiature 5G in Emilia Romagna, poco fuori da Bologna, però ne parliamo pochissimo, quindi in realtà le competenze in Europa sappiamo benissimo che ci sono anche in questo settore, non siamo il mercato degli Stati Uniti d'America, inevitabilmente, ma proprio sul tema 5G abbiamo degli assi nella manica che secondo me, se sfruttati in un'ottica di cooperazione atlantica come dovrebbe essere e di alleanza con gli Stati Uniti come inevitabilmente ancora una volta deve essere, possono creare un valore per noi come Unione Europea e di conseguenza per tutto l'asse occidentale. La voce che sentite è quella dell'avvocato Stefano Mele, che è esperto di cyber security. È interessante perché proprio in chiusura di trasmissione, dopo aver elencato tutti i dossier estremamente divisivi per noi, intesi come Europa e Stati Uniti, Libia, Turchia, Nord Stream, Medio Oriente, Palestina, 5G, attenzione, il 5G che pareva divisivo, in realtà potremmo, come Europa, sfoderare un asso nella manica, come diceva l'avvocato Mele, ma che potrebbe, e qua diciamo ci riappropriamo di un lessico più nostro, diventare una formidabile arma per le relazioni internazionali. Beh, che dire, avvocato Mele, grazie mille della buona notizia. Mi permetto solo di aggiungere che poi ci vuole una bella volontà politica, una bella visione per andare a braccetto, no, con gli Stati Uniti in questo senso e riallacciare un po' quel patto che si è un po' sfibrato. Grazie mille a Stefano Mele per essere stato con noi. Roberta Fisani, quando mi guardi così so che arriverà una parolina. Che precede i titoli di coda che servono per ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.